nel segno duro del mio volto, nella sua terra offesa. L'occhio, di me forse fiore, sbuca a una fessura, lo acceca sull'asfalto un faro di passaggio, ma a ogni svolta aspetta il tuo viso che lo segua dietro un vetro e gli sorrida non severamente. Mentre intorno a me si annebbia e ride, ferocemente stanco di aspettarla e di ripeterla da sé, amore fa di sé parola impronunciabile. Amore cade in una riga d'acqua, morta in una buca in cui non scorre foglia di questo albero assetato. Marcisce bene ai piedi del suo tronco, magro, nudo, assoluto, nel fango.